Spero che abbiate tutti debitamente apprezzato la storia di come la giunta comunale di Lazzate, in provincia di Milano, avesse divisato ad imporre a una via del capoluogo il nome di via Padania e ne sia stata prontamente impedita dalla prefettura che ha cassato la relativa delibera, per scoprire subito dopo che una via Padania esisteva da 15 anni e con tutti i crismi prefettizi nel comune di Cesano Maderno, località Villaggio Snia, a non più di 20 km di distanza. La notizia non è recentissima, risale una decina di giorni fa, ma mi permetterò di tornarci sopra, perché sembra fatta apposta per confortare quello che in fondo è un assunto base della nostra trasmissione. È il principio per cui i valori, qualsiasi tipo di valore o di disvalore, non stanno nelle parole o nelle cose, ma nell'intenzione di chi ce li mette, nella volontà di metterceli o di non metterceli in pratica. È evidente che intestare una via alla Padania nel 1981 è la cosa affatto diversa che farlo nel 1996. La prefettura di Milano, che ha vietato la seconda operazione e non la prima, con motivazioni di indole generale, parlando di un inaccettabile pseudo toponimo non storicizzato, si è fatta pescare in flagrante contraddizione e gli amministratori comunali di Lazzate sono perfettamente autorizzati ad accusare i funzionari prefettizi di aver agito spinti da motivazioni politiche. Che qualche intento politico ce l'avessero anche loro, naturalmente non sembra si possa negare, ma non importa, perché una cosa è un corpo rappresentativo eletto, che proprio in quanto eletto ha il preciso dovere di portare avanti la politica che i suoi elettori desiderano, e un altro è un organismo come la prefettura che dovrebbe in teoria guardarsi dall'appoggiare una parte contro l'altra. Ma che volete, la neutralità dell'amministrazione dello Stato fa il paio con l'obiettività degli argomenti di cui spesso si serve per avvalorare le sue scelte, con la pretesa, per dirne una, di non poter impiegare un toponimo per denominare una strada, una piazza o una via se non è adeguatamente storicizzato, che non è neanche facile capire che cosa significa. Ma evidentemente quei poveri funzionari, costretti a inventarsi sui due piedi un motivo oggettivo per bloccare una decisione politica che a giudizio loro o altrui andava bloccata, hanno dovuto improvvisare e non sono riusciti a trovare niente di meglio. La storia non offre altrettante garanzie di oggettività della scienza, ma in mancanza di meglio può servire anche lei. Personalmente vi dirò che non ho la minima idea di quali norme regolino l'imposizione dei nomi alle vie, alle piazze, ai vicoli affini. Mi sembra di ricordare che esiste un divieto del tutto ragionevole di ricorrere a nomi di personaggi in vita e anche un obbligo non sempre rispettato di aspettare un certo numero di anni dopo la morte dei soggetti più promettenti. E dal punto di vista sostanziale, non lo so. Dal punto di vista sostanziale è ovvio che quando si ricorre a nome di personaggi eminenti si scelgano individui dalla cui opera la comunità ha tratto giovamento, in cui essa possa riconoscersi in qualche modo, anche se è altrettanto ovvio che sull'esistenza di queste condizioni possono esistere dei pareri diversi e che i criteri in base a cui un parere prevale sull'altro siano di natura abbastanza estrinseca. Tanto per fare un esempio lontano che non offenda più nessuno, al proliferare di viali, corsi e piazze intestate a Umberto I non mi sembra abbia mai fatto contraltare neanche uno sperduto vicoletto in memoria di Gaetano Bresci, anche se all'epoca nel suo gesto forse si è riconosciuta una percentuale di cittadini maggiore di quanto fosse allora prudente affermare. Ma mi stupirei molto se esistesse qualche norma positiva sull'utilizzo dei toponimi geografici e paragiografici, e sia a Parigi che è Parigi, e dove i prefetti li hanno inventati, hanno tranquillamente dedicato un viale e non dei meno importanti ai Campi Elisi, e non si vede perché qualcuno dovrebbe vietare a una giunta comunale particolarmente poetica di dedicare, mettiamo, un lungomare al paradiso terrestre o i giardini pubblici all'isola che non c'è. Ho due osservazioni ancora. Apprendo dai giornali che il vice sindaco di Lazzate, signor Cesarino Monti, minaccia nel caso che il prefetto insista nel suo divieto di intestare quella via alla Lega Lombarda. Così vedremo, dice chi avrà il coraggio di dire che si tratta di un termine privo di storia. È una bella mossa, eh? Il passato è passato, la storia è storia. e nulla vieta di proiettarvi i valori del presente, a rischio di confondere delle esperienze diverse di diversa qualità, e comunque ancorerebbe quel nome controverso a quello di numerose vie e piazze che alla Lega Lombarda sono pacificamente intestate. Credo che ce ne sia una anche a Milano, dove d'altronde, disponendo anche di una via Formentina e di una via dei Bossi, siamo decisamente all'avanguardia. Tuttavia, se fossi nei panni del signor Cesarino Monti, io non ne sarei affatto sicuro. Le prefetture non temono ridicolo più di quanto lo tema lui. Sarebbe indubbiamente un bel match. Seconda e ultima osservazione. Questo piccolo episodio di braccio di ferro tra il municipio di Lazzate e Corso Monforte è stato notato e commentato da molti. Tuttavia, mi sembra che nessuno abbia colto l'unico particolare davvero importante, che in Italia, nel 1996, dopo un decennio di polemiche in merito, con un governo che a parole è ancora più federalista dell'opposizione, con un ministro, il buon Bassanini, che illustra un giorno sì e l'altro anche il proposito di allargare e di potenziare le autonomie locali come più non si può, i comuni, che dovrebbero rappresentare l'unità base dell'autogoverno, non hanno neanche il diritto non di governarsi, ma di scegliere in santa pace i nomi delle loro vie. Semmai il termine Padania cesserà di denominare una semplice espressione geografica per acquisire lo status giuridico che gli amministratori di Lazzate tra gli altri auspicano, dovremmo ammettere tutti di essercela voluta.